Di Giovanni Minoli. Milano si riapproprio del ruolo di capitale mondiale del paese, si riapproprio in un momento difficilissimo, un momento nel quale purtroppo la capitale reale non sta dimostrando di avere forse quegli anticorpi morali di cui ha bisogno, che tutti ovviamente ci auguriamo nei tempi brevissimi. Grazie. Era il giudice Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e garante della legalità di Expo 2015. Un arbitro voluto dal presidente Matteo Renzi a Milano come a Roma per rilanciare il Giubileo della Misericordia. E proprio Cantone, alla vigilia del suo nuovo incarico, lancia una sfida morale tra Milano e Roma. Milano caput mundi, ma i romani cosa ne pensano? Giovanna Corsetti ha raccolto le reazioni dei cittadini della capitale. Non lo penso, non vivo in una capitale corrotta. È vero. Sono d'accordo con quello che dice Cantone. A me piace molto Cantone. Lei? Lasciamo perdere. È discutibile, credo. Non è Roma, è l'Italia che è rovinata. Milano dovrebbe provare a essere capitale e vedere se succede la stessa cosa. L'orticello se lo coltivano tutti quanti. Milano è peggio di Roma, secondo me. Roma è più esposta. Milano capitale morale. Ma di che capitale morale? Sei vergognassero. Glielo dico in romanesco? Se preferisci. Vaffanculo. Lascia perdere che sono scandalosi. Beh, ci dice qualcosa la Lega, no? Quando diceva Roma ladrona. Abbiamo visto. Roma deve fare molto per cambiare se vuole rimanere capitale d'Italia. Roma poi, chiaramente, essendo la concentrazione della politica qui, è più sollecitata. Noi come cittadini riteniamo che gli anticorpi ce l'abbiamo. Chi è Cantone? Appunto, chi è Cantone? Ma lei crede davvero che Roma sia più corrotta di Milano? No, non penso. Milano non è affatto da meno. Non saprei, sinceramente non c'ho un corrottometro. Roma, infatti, sta dimostrando di essere una città corruttibile, fatta da corrotti. Non è Milano, non è Roma, non è Palermo. Dove vige la burocrazia, purtroppo, vige la corruzione. Io faccio il libero professionista e dove vado cercano sempre di chiedermi mazzette. Evito di lavorare col pubblico proprio per questo, quindi la corruzione esiste. Esiste e ne dobbiamo prendere atto. Ma che città assurda è Roma, raga? In un mese è passata dal funerale di Casa Monica a quello di Marino. No, però ragazzi, contro Marino negli ultimi giorni si è scatenata una mobilitazione che nemmeno contro l'ISIS. Era talmente tanto assediato ieri in Campidoglio che a un certo punto lo ha chiamato il boss di Casa Monica per chiedergli se aveva bisogno di un elicottero per scappare dai tetti. Però c'è da dire una cosa, ragazzi, Roma doveva uscire da questa cappa, eh. Oggi Roma è sporca, degradata, caotica, corrotta. E tutto questo solo per colpa dei 50 anni di potere incontrastato di Ignazio Marino. No, scusa Mauri, no. Marino non è lì da 50 anni, eh. No? No. E da quanto? 40? No, un po' meno. 30? No. 25? No. 10? No. 5? No, sono 2. E in 2 anni ha fatto tutto sto casino? Da solo? No, perché ragazzi, ora sembra che lui sia responsabile di tutto, no? Cioè, se togli lui, Roma diventa Zurigo. Ritorna quel modello mondiale di efficienza per cui era famosa Roma ai tempi di Alemanno. Ma poi, scusate. Beh, forse una buona idea quella di Crozza. Roma come Zurigo. Un'efficienza svizzera per affrontare la sfida del Giubileo. Essere pronti ad accogliere dal prossimo 8 dicembre milioni e milioni di pellegrini che attraverseranno Roma. Ma che città troveranno questi pellegrini? Giovanna Corsetti, con l'aiuto di Monsignor Liberio Andreatta, presidente dell'Opera Romana Pellegrinaggi, è andata alla scoperta proprio dei percorsi giubilari. Da subito è partita una macchina organizzativa per fare una radiografia delle necessità di questa città, quindi abbiamo immaginato di far rinascere tutti quei percorsi che dal Medioevo in poi erano percorsi dei pellegrini per far sentire l'uomo moderno un viandante. Sono gli antichi percorsi compiuti dai papi subito dopo l'elezione, da San Pietro alla Basilica di San Giovanni in Laterano per prendere possesso della cattedra pontificia e oggi riproposti come percorsi giubilari che i nuovi pellegrini faranno a piedi. Con l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore al giubileo abbiamo visionato in qualche modo quali erano le criticità, le problematiche, dove mancano i marciapiedi, dove c'è la strada da riparare. Quindi abbiamo cercato di percorrere questi cammini non solo con le esigenze del pellegrino, ma anche con le esigenze dei residenti. E anche noi, come pellegrini, abbiamo voluto rifare uno dei percorsi giubilari, quello mariano, che da Santa Maria Maggiore arriva sino a San Pietro. Ci accompagna la consigliera comunale Natalina Imma. Allora, qui come vediamo il marciapiede è totalmente dissestato, cioè qui ci sono minimo 2-3 cadute di persone al giorno che si fanno male, non è previsto nessun tipo di lavori. Monsignor Andreatta, però questi percorsi giubilari somigliano più a percorsi di guerra e spesso non sono previsti né interventi né opere. Questo giubileo Papa Francesco l'ha voluto per far vivere le persone le grandi opere. Non però le grandi opere strutturali, ma le grandi opere della misericordia. Quindi se il pellegrinaggio in qualche modo è la metafora della vita, è fatta di difficoltà, di momenti di gioia, di momenti di fatica, di momenti di sudore. Quindi noi siamo felicissimi che ci siano anche dei problemi, degli ostacoli, delle difficoltà, affinché le persone incarnino nella loro pelle e nella loro vivibilità dell'esperienza del pellegrinaggio e d'esercito, soprattutto la pazienza, il soccorso al bisognoso. E con pazienza continuiamo con la consigliera Naim alla scoperta del percorso mariano. Molti punti in cui passeranno i pellegrini, e i parapedonali sono rotti, quindi non c'è nessuna protezione per i pedoni, anche perché poi fra questi pellegrini ci saranno molte persone anziane, ci sono persone disabili. Consigliera Naim, chi per esempio è su una sedia a rotelle, come se la cava? Gli attraversamenti non sono forniti di scivoli per disabili, quindi chi sarà con una carrozzina non potrà accedere ai marciapiedi e saranno costretti a transitare sulla strada, però anche lì è totalmente sconnesso e quindi non avranno possibilità di accesso alcuna. E qui non ci sono neanche le strisce, sono completamente cancellate. La segnaletica che è assolutamente cancellata, qui abbiamo un passaggio che sarà di 1000 veicoli l'ora. Io ho chiesto agli uffici tecnici, anche in virtù del fatto del giubileo, però mi hanno detto che non ci sono i fondi. Sono mesi e mesi che chiedo queste strisce pedonali. Signora Naim, lei come consigliera non può fare nulla? Io ci provo in tutti i modi, però ho solo la possibilità di indicare, di chiedere, ma non di fare. Quello non rientra nei miei poteri e nelle mie competenze. Infinite segnalazioni, risposte pochissime o nulle? Sì, per ora risposte nulle. Anche se alla fine non riuscirà il comune a riprodurre tutte le strade in maniera perfetta, anche se rimarrà qualche San Pietrino incompiuto, qualche marciapiede magari stretto, ma questo fa parte della vita. Monsignor Andreatta, è un percorso per guadagnarsi su strada la soluzione, perché la penitenza alla fine questi pellegrini l'hanno già fatta. Questo è in dubbio. Quanti pellegrini aspettate, preventivate più o meno? Io penso che saranno nell'ordine di 20-25 milioni, sì. Poche opere per un giubileo certamente più spirituale che materiale, secondo i desideri della Chiesa di Papa Bergoglio. Ma ancora Andreatta, Monsignor Andreatta, continua il suo racconto a Giovanna Corsetti. Io ci credo a questa città e soprattutto credo in quelle persone che ci mettono l'anima. Lei pensa che questi assessori, che giorno, notte, queste persone che io ho incontrato, questa squadra che ha lavorato per il giubileo, verso la quale io ho un rispetto perché ho visto lasciare la famiglia il sabato e la domenica, in prima estate, mentre la moglie e i figli andavano al mare, loro erano qui a lavorare per questa città. Le pare giusto che noi gli sputiamo addosso e parliamo male per quello che non riescono anche loro a fare, perché sono molte volte nell'impossibilità, la legge non glielo consente, i tempi tecnici burocratici non li consentono. Io penso che quello che è stato progettato e quello che stanno facendo è già tantissimo rispetto ai tempi e alle risorse economiche. Non dobbiamo dimenticare che quando sono stati sciolti quei finanziamenti, il 27 di agosto, quando è stato annunciato l'anno giubilare, e allora non mettiamo la croce sempre su chi lavora, mettiamo anche la croce su molta gente che parla, lavora meno e giudica troppo. Il giubileo è stato annunciato il 13 di marzo. Ma perché, Monsignore Andreatta, le deleghe del governo sono arrivate solo più di 5 mesi dopo, il 27 di agosto? Non lo so. Lo chiedo a loro. 80 milioni per un giubileo? Monsignore, le sembra una cifra congrua? I finanziamenti per la città non li fa né il Vaticano né nel vicariato di Roma. È compito del governo e del comune. Quindi io credo che questa domanda sia molto corretta e rispettosa, che venga fatta alle persone competenti perché possono dare una risposta altrettanto competente. Monsignor Andreatta, ha sentito di questi ulteriori 300 milioni che dovrebbero arrivare, diciamo, a fine marino? Vede, anch'io come lei, leggo i giornali, ascolto la televisione, ascolto la radio. Sono cose che apprendo come apprende lei. E i dubbi o le domande che si pone lei me le pongo anch'io, ma qualcuno spero ce ne darà delle risposte. Monsignor Andreatta, speriamo prima dell'8 dicembre. Ma guarda, l'8 dicembre poi alla fine non è la fine del mondo, eh. L'anno santo dura un anno intero. Se poi arriveremo invece dell'8 dicembre, il 12 dicembre o il 3 di gennaio, lei pensa che cambia molto? L'importante è che si facciano, e si facciano bene, e possiamo arrivare a vivere un anno con serenità, con gioia e soprattutto con ottimismo. Però, Monsignor Andreatta, sulle pochissime gare partite c'è già stato un arresto. Ma non mi ha meravigliato, lo sa. Anzi, le dirò di più. Ce n'è stato uno solo. Ma esiste la perfezione, lei? In casa sua, la famiglia, i genitori, i figli, gli amici. Ma c'è la perfezione. La perfezione non esiste. Monsignor Andreatta, allora tutti quelli che vogliono sostenere che ormai Roma sia una mela marcia? Definire marcia tutta una categoria, un'istituzione, è veramente ingeneroso e molto scorretto. Se un prete sbaglia non si può dire che i preti sbagliano tutti. Se un politico sbaglia non si può dire che tutti sbagliano. Ecco, queste problematiche prima di ogni evento sono sempre nate, sempre le stesse denunce di ritardi. Ma immagini una cosa, cosa non hanno detto i media sull'Expo di Milano? E cos'è stata l'Expo di Milano? Io sono andato e ho detto, da oggi in poi non leggerò più i giornali perché mi hanno spudoratamente mentito. E allora mi domando, possiamo essere avvelenati tutti i giorni noi e generalizzare? Roma, come tutte le città, come tutte le realtà umane, hanno anche delle baccature, hanno anche del marcio. Ma dire che Roma è una mela marcia è ingeneroso, ingiusto e offenderebbe tutte le persone per bene. Le persone oneste, che ce ne sono tante. Diciamo che Roma è una mela bacata, togliamo la parte bacata, c'è la giustizia, ci sono i magistrati, ci sono i responsabili della conduzione pubblica, ma una volta che abbiamo tolto il marcio, sostanzialmente la mela è sana. Roma è una società ricca di valori. Con questo, non buttiamo fango sulle persone oneste per bene, che invece devono essere difese, incoraggiate, ma con grande grinta e con grande determinazione. Roma ce la farà. Insomma, Roma contro Milano, Milano contro Roma, anche per i pellegrini che verranno. Ma la nostra Sora ha una sua idea, la sua idea per un piano B. Quando penso ai pori pellegrini che fra un po' saranno qui, auspico con ansia un piano B. Se per quel genio di Cantone Mola capitale non è qui, sboccia sotto al Duomo il piano B. Piano B, piano B, piano B, vengo ad illustrarvi il piano B. Se qui a Roma al culo abbiamo le pezze e a Milano state meglio voi, senza impicci o giunte carcerate, perché il pellegrino non ve lo accattate voi. Giubili, giubila, che gran cosa, ma che idea favolosa. Noi da qui si va là, ideona, ma che gran bella cosa. Andiamo tutti là. E come ogni venerdì, Alessandra Fiori ci racconta che cosa vale la pena di leggere, vedere, ascoltare durante questo weekend. Allora Alessandra, cosa ci consigli? Sono appena usciti i due libri al centro del nuovo scandalo che sconvolge il Vaticano. Sono Via Crucis di Gianluigi Nuzzi e Avarizia, le carte che svelano ricchezze, scandali e segreti della Chiesa di Francesco, di Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso. Ecco, Emiliano, chi ti ha dato le carte? Questo ovviamente non posso dirlo. Ovviamente. Cosa che posso dire è che questo è un libro che ha un lavoro molto lungo, è durato più di un anno. Le fonti sono tante, sono interne al Vaticano, esterne, sono ecclesiastici, sono laici, ed è, insomma, è un lavoro di inchiesta di tipo classico che è durato molto tempo. Di più, beh, visti gli arresti, comunque le carte o una parte delle carte sembrano firmate. Comunque, tu ti sei chiesto fino a che punto saresti stato lo strumento di una guerra interna? Ma noi in Italia non siamo abituati al giornalismo d'inchiesta. I giornalisti d'inchiesta devono trovare notizie, devono verificare se sono vere, e nel caso sono vere e sono deontologicamente accettabili, ovviamente, da pubblicare, in quel caso vanno pubblicate. Io ho pubblicato solo documenti segreti finanziari che hanno enorme interesse pubblico e raccontano, ovviamente svelano, un potere economico che nessuno prima poteva immaginare. Ma non è un controsenso affermare che questo libro va in aiuto di Papa Francesco? Io scrivo quello, dettagli degli scandali finanziari di cui Papa Francesco ha parlato tante volte nel corso di questi ultimi anni. Papa Francesco ha parlato della corruzione della curia, di sprechi giganteschi, ha chiesto una chiesa povera e per i poveri. Nel mio libro si racconta che la chiesa che si oppone a Francesco è una chiesa ancora molto ricca, che non vuole perdere privilegi, che non vuole perdere prebende e che fa di tutto affinché la rivoluzione pauperistica di Francesco resti solo un'utopia. Avarizia, il tuo libro, contiene rivelazioni sul patrimonio immobiliare della chiesa, i costi fuori controllo, fino ai soldi della beneficenza usati, stando a quanto racconti, in tutt'altro modo. Ma mi fai un esempio concreto? Per esempio, l'obolo di San Pietro è uno dei, diciamo, delle beneficenze più importanti, è un regalo che i fedeli di tutto il mondo fanno al Papa tutti gli anni. Arriva a 60, 70, 80 milioni di euro l'anno e si immagina che venga speso soprattutto per i più poveri, i più bisognosi. Ma ho scoperto che la segreteria di Stato ha alimentato un fondo in quest'obolo che è diventato enorme, gigantesco, quasi 400 milioni di euro. E un rapporto Moneyball della Commissione Europea che ha studiato i conti vaticani sottolinea che questi soldi dell'obolo non vengono utilizzati per la beneficenza, ma per le necessità dei dicasteri e dei cardinali, insomma per la curia romana. Avarizia, le carte che svelano ricchezze, scandali e segreti della Chiesa di Francesco, di Emiliano Fittipaldi Feltrinelli. Poi al cinema questo weekend c'è il nuovo 007, Spectre, ce lo racconta la nostra inviata molto speciale. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ciao, te lo dico subito, sto attenta al cinema, però mo se questo spasta le gambe ti parlo. Scusi, che mi fa passare gentilmente? Prima se dovevo andare al bagno. D'accordo, senta Donatella, allora il nuovo 007. Ta-da-ta-da! Spectre. E che è? Spectre. Io ho detto, comunque, il biondino che fa 007. Che è Daniel Craig? Sì? Daniel Craig? Ecco, lui è pieno di nemici. Perché la sua vecchia capra, morta, gli lascia un video e gli fa fare delle cose che fanno incazzarrabbiare un terrorista tedesco, sì, un sacco sadico, sì, eppure i suoi nuovi capi, vivi però. Beh, sì. Insomma, lui è un po' solo, spaesato, sì, però ha degli amici che lo aiutano, perché pure se è 007 mica può fare tutto da solo, no? Guardati intorno, James. Tutto quello in cui credevi è in rovina. Perché sei qui? Lo sai che a un certo punto sembra che sta a Roma? Donatella, lo sanno tutti che il film è girato in gran parte a Roma? Dici? Dico sì. Comunque c'è sta pure la mamma di Monica Bellucci, carina. Ma no, Donatella, è Monica Bellucci. No. Ma sì, Donatella. E anzi, finalmente è una Bond girl sopra i 40, un bel cambiamento. Per me è la mamma. Mi serve un'ultima cosa. Che cosa hai in mente? Fammi scomparire. Non è proprio difficilissimo, perché, pensa, questo 007 è proprio piccoletto. Pensa, a un certo punto passa vicino a un bidone della spazzatura e niente, un macello. Perché esplode? Che fa? Ma che dici? Scusa, ma che dovevi tu? Ti esplodono i cestini, boh? È un macello perché si capisce che Daniel Craig è bassissimo. È più alto il cestino. Donatella, Daniel Craig magari non sarà altissimo, ma... No, no, è proprio un cubetto, però vestito caruccio. Ecco perché c'ha tutte quelle donne, capito? Perché si veste bene? No, per la legge che gli uomini bassi sotto, insomma, c'hanno... No, Donatella, perfetto! Spectre, il 24esimo film della serie di 007, con protagonista Daniel Craig per la quarta volta e con Monica Bellucci, diretto da Sam Mendes, che aveva già diretto Skyfall. Spectre ha guadagnato nella prima settimana circa 80 milioni di dollari nei paesi in cui è uscito, e in Inghilterra, con 40 milioni di sterline nel primo weekend, è stato il più grande debutto di sempre. Comunque lui è basso e quella ha la mamma. Sì, va bene, grazie Donatella. E prego. Ma ecco comparire Pietrangelo Buttafuoco. Allora, Pietrangelo, dove andiamo questo weekend? Questa settimana, Alessandra, ecco, entriamo... Il camerino di un maestro del teatro. L'abbiamo applaudito in quel meraviglioso Otello. E Vincenzo Pirrotta. Sa benedica, maestro! Sa benedica, baciamo le mani. Buongiorno, maestro! Buongiorno, benvenuti. Mi spiega, per iniziare, che cos'è il contista? È un artista. In Sicilia c'è una scuola importantissima di puntisti e che da fine 800 ad oggi hanno raccontato la storia dell'epopea del ciclo carolingio, la storia dell'opera dei pupi, per intenderci. Orlando Rinaldo. Carlo Magno, Adolfo d'Inghilterra, Dodon della Mazza, Viviano del Bastone. Il raccontatore di storie, insomma, il puntista, giusto, maestro? Racconta storie. Allora, il cantastorie. Ma è una cosa diversa. È una cosa molto più sofisticata. No, lo sai perché, Alessandro? Perché comunque c'è Ucunto delle Conte di Basile, e poi c'è come il ciclo carolingio che il maestro ha testé evocato. Detto ciò, vogliamo far sentire ad Alessandra una prova di Cunto e prendiamo a pretesto Guasta Semenza, il vostro libro? Si conta e si conta che un giorno, una notte per meglio dire, o ancora meglio una sera, un carrettiere si mette in viaggio per portare i frutti dalla collina alla marina. E il viaggio avveniva in una notte e il carrettiere si aiutava, come uso i carrettieri facevano e raccontavano e cantavano per tenersi compagnia. Vai ore notte, eccomo va la luna, colume sciacco vai alla lontana. Musica, parola e scena, tutto in una voce, quindi. Tutto in una voce, e in teatro viene ancora meglio. Però adesso abbiamo offerto ad Alessandro il privilegio di stare dentro il camerino del maestro e così i nostri ascoltatori l'hanno potuto godere. Bella la voce di bellissima, Vincenzo, no? Bellissima, molto evocativa. Zio Vice, può ripetere titolo, editore, Mesogeo, lo dico io? Guasta Semenza. Vincenzo Pirrotta. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. E adesso con Franco Schipani parliamo di musica. Ciao Franco. Ciao Alessandra. E allora Franco, Che cosa andiamo a sentire questo weekend? Un concerto da non perdere, cara Alessandra, quello che si terrà domani al Teatro Politeama di Catanzaro. Siete a Catanzaro, nelle zone limitrofe, siete a 100 km, 150, non lo so, comunque andateci perché ne vale veramente la pena. C'è James Nese con Napoli Centrale che state ascoltando in sottofondo e Lino Vairetti che dirige gli Osanna. Franco, Napoli Centrale, Osanna, Napoli a Catanzaro, giusto? Sì, ma guarda, loro potrebbero suonare anche a New York. Sono due artisti immensi, due protagonisti assoluti di quel momento musicale e culturale conosciuto poi come il Napoli Power. Quindi Teatro Politeama di Catanzaro alle ore 21. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Questo invece è Filippo Neviani. Ah, ecco. Lo sai chi è Filippo Neviani, Alessandra? Lo dico? Dai. Neck, però tu non sai come Neck ha iniziato la sua carriera. No. Faceva musica country. A me piace il country. A me pure piace, però Neck è country. Vabbè, insomma, poi lui ha cambiato un paio di case discografiche, ha cambiato anche genere, ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo e dopodomani ritorna sul luogo del delitto, il palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove proporrà con una band vecchi e nuovi successi. Sono due appuntamenti da non mancare, Alessandra, perché ne vale veramente la pena. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, Franco. Lady B, The Beatles. Pensa che nel 1965, quando il primo ministro inglese Harold Wilson chiese alla regina Elisabetta il permesso di nominare i baronetti, questi della corona britannica, questi quattro ragazzi di Liverpool, Elisabetta lo guardò un po' dubbioso, gli disse: ma non lo so, ti sembrava una buona idea? Beh, insomma, sono i Beatles, il gruppo che ha cambiato la storia del rock, ma è anche una storia fatta di forti personalità che si scontrano, faide familiari che minano la stabilità del gruppo, interessi economici, cara Alessandra, che come ti potrai immaginare sono veramente da capogiro. Questa è la storia dei Beatles, ce la racconta Giovanni Minoli. Restate in ascolto. There will be an answer.